Ciao, ti voglio bene, anche se non ce lo diciamo. Ma so che stai lottando ed è per questo che ti amo. Ho imparato a lasciarmi andare, a inseguire questa vita, come fa un ciclista sopra una salita. Ed è bellissimo quando ti impegni a fare il tuo lavoro con orgoglio. E se mi abbracci in mezzo alla tempesta, comunque vada. Per te ci sono ancora, perché sei una meraviglia. Per te ci sono ancora, anche se il mondo ha venduto il cuore, non ci somiglia. Io ci sono ancora, sono la stessa persona di sempre, ma tu mi fai sentire nuova. Ancora, ancora. Siamo equilibristi, siamo ballerini in un film di Federico Fellini. Quando cammino sola con le buste della spesa, è l'indifferenza l'unica cosa che mi pesa. In un cinema per guardare la marcor di un mondo digitale, rivedo un film e piango sul finale. Ed è bellissimo che chiedi scusa, ma tu per natura non mi hai mai delusa. Mille chilometri di questa strada, comunque vada. Per te ci sono ancora, perché sei una meraviglia. Per te ci sono ancora, anche se il mondo ha venduto un cuore, non ci somiglia. Io ci sono ancora, sono la stessa persona. Ciao, ti voglio bene, anche se non ce lo diciamo. Equilibristi, siamo ballerini, siamo giganti, siamo bambini, in un film di Federico Fellini.